Capitolo 5. Era una sera di fine novembre. Anna, seduta alla finestra della torretta, con la penna a mezz'aria e gli occhi sognanti, osservava lo spettacolo del tramonto e provò l'improvviso desiderio di fare una passeggiata fino al vecchio cimitero. Non l'aveva mai visitato, dato che per le sue camminate serali preferiva il boschetto di aceri e betulle o la strada della baia. Ma ora era quel periodo di novembre, dopo la caduta delle foglie, in cui le sembrava indiscreto penetrare nei boschi. Il loro splendore terreno era svanito, non ancora sostituito dallo splendore celeste, fatto di spirito, purezza e biancore. Perciò Anna si recò al cimitero. In quel momento si sentiva così depressa e scoraggiata che non trovava poi tanto triste l'idea del cimitero. E poi era pieno di Pringle, secondo le informazioni di Rebecca. Avevano continuato per generazioni a seppellirli lì, preferendolo al cimitero nuovo, finché non c'era più posto per uno spillo. Ad Anna parve decisamente incoraggiante poter vedere quanti Pringle erano ormai in condizione di non nuocere più a nessuno. Riguardo ai Pringle, Anna sentiva di essere ormai al limite della sopportazione. La situazione stava peggiorando fino a diventare un vero e proprio incubo. La larvata campagna di insubordinazione e boicottaggio condotta da Jen Pringle aveva infine sortito i suoi effetti. La settimana precedente aveva chiesto agli alunni della terza classe di scrivere un componimento su gli avvenimenti più importanti della settimana. Jen Pringle aveva fatto un buon compito, la briccona era davvero intelligente, e vi aveva inserito un insulto voluto verso l'insegnante, tanto offensivo da non poter essere ignorato. Anna l'aveva mandata a casa dicendo che avrebbe potuto tornare a scuola solo dopo che si fosse scusata. Era fatta. Era ormai guerra aperta tra lei e Pringle, e la povera Anna sapeva già a chi sarebbe spettata la palma del vincitore. Eh sì, la commissione scolastica si sarebbe schierata dalla parte dei Pringle, lasciandole la scelta tra concedere a Jen di tornare o presentare le dimissioni. Era molto scoraggiata. Aveva fatto del suo meglio e sapeva che avrebbe potuto vincere se le fosse stata data la possibilità di combattere. Non è colpa mia, pensava avvilita. Chi mai potrebbe vincere contro un nemico di tale potenza? Ma tornare a Green Gables sconfitta, dover affrontare lo sdegno della signora Lynde e l'esultanza dei Pai, ah, anche la solidarietà degli amici sarebbe stata dolorosa, e una volta che si fosse sparsa la voce del suo fallimento a Summerside sarebbe stato impossibile trovare un'altra scuola. La sua piccola vittoria però l'aveva avuta con la recita. Il ricordo dell'episodio portò un sorriso malignetto sulle labbra di Anna e un'espressione di soddisfazione nei suoi occhi. Aveva organizzato nella scuola un centro d'arte drammatica e allestito frettolosamente una rappresentazione per ottenere fondi destinati all'acquisto di stampe di qualità per le aule. Si era costretta a chiedere a Catherine Brooke di aiutarla perché le sembrava che Catherine fosse sempre messa da parte. Ebbe agio di pentirsene più di una volta, dato che Catherine si dimostrò ancora più scostante e sarcastica del solito. Non assisteva a una prova senza fare acidi commenti o aggrottare minacciosamente le sopracciglia, e per peggiorare le cose, Catherine aveva insistito ad affidare a Jen Pringle il ruolo di Maria Stuarda, regina di Scozia. È l'unica della scuola in grado di recitare la parte, aveva detto. Solo lei ha la personalità adatta. Anna non era tanto certa, le sembrava che Sophie Sinclair, una ragazza alta con gli occhi nocciole e la folta capigliatura castana, sarebbe risultata una Maria Stuarda migliore di Jen. Ma Sophie non era iscritta al centro e non aveva mai recitato. Non voglio principianti, non intendo associarmi a un progetto destinato a fallire, aveva detto sgarbatamente Catherine. E Anna aveva ceduto. Era innegabile che Jen recitasse bene la parte. Aveva una predisposizione naturale per l'arte drammatica e si impegnava a fondo nella preparazione. Provavano 4 sere alla settimana e in apparenza filava tutto liscio. Jen sembrava tenere davvero alla sua parte e si comportava correttamente, almeno durante le prove. Anna lasciava che di lei si occupasse Catherine, ma un paio di volte notò sul volto di Jen un'espressione di malvagio trionfo che la incuriosì. Non riusciva a comprenderne il motivo. Un pomeriggio, Poco dopo l'inizio delle prove, Anna trovò Sophie Sinclair in lacrime, in un angolo dello spogliatoio femminile. La prima aveva cercato di darsi un contegno negando tutto, poi si era abbandonata al pianto. Volevo tanto recitare, essere Maria Stuarda, disse tra i singhiozzi. Non ho mai potuto farlo. Mio padre non ha voluto che mi iscrivessi al centro perché c'era una tassa da pagare e noi badiamo al centesimo e naturalmente non ho esperienza. Ho sempre adorato Maria Stuarda, solo il nome mi fa venire i brividi lungo la schiena. Non credo, non riesco a credere che lei c'entri con l'assassinio di Darnley. Oh, sarebbe stato meraviglioso immaginare di essere lei per un po'. Anna pensò in seguito che era stato l'angelo custode a suggerirle la risposta. Ti scriverò la parte, Sophie, e te la farò provare, ti servirà da esercizio. E dato che abbiamo il progetto di rappresentare il dramma altrove, se andrà bene qui, sarà bene avere una sostituta nel caso che Jen non fosse disponibile. Ma non diremo niente a nessuno. Il giorno dopo Sophie sapeva già la parte a memoria. Nel pomeriggio tornava a Windy Willows con Anna dopo la scuola e la provava nella torretta. Si divertivano molto insieme perché Sophie, pur essendo una ragazza tranquilla, aveva del brio. Il dramma doveva andare in scena l'ultimo venerdì di novembre nel municipio. L'avvenimento fu ampiamente pubblicizzato e i posti numerati furono venduti tutti. Anna e Catherine impiegarono 2 sere ad addobbare la sala. Fu ingaggiata la banda e un famoso soprano di Charlottetown avrebbe cantato negli intervalli. La prova generale fu un successo. Jen recitò in modo superbo e il resto della compagnia fu all'altezza. Venerdì mattina Jen non era a scuola e nel pomeriggio la madre fece sapere che aveva un brutto mal di gola, temevano che fosse tonsillite. Erano tutti molto dispiaciuti, ma era davvero impossibile che prendesse parte alla rappresentazione di quella sera. Catherine e Anna si guardarono costernate, unite per la prima volta dall'avversità. Dovremmo rimandare tutto, disse Catherine lentamente. Significa il fallimento totale. A dicembre tutti mettono qualcosa in scena. Beh, io l'ho sempre pensato che era una follia cercare di organizzare una recita in questa stagione. Non la rimanderemo, disse Anna con occhi verdi come quelli di Jen. Non intendeva dirlo a Catherine Brooke, ma era assolutamente certa che la tonsillite di Jen Pringle fosse diplomatica. Era una macchinazione premeditata. Difficile sapere se vi erano coinvolti altri Pringle per affossare la recita. E solo perché l'aveva caldeggiata lei, Anna Shirley. Oh, se crede, disse Catherine con una scortese alzata di spalle, ma che intende fare? Dar da leggere la parte a qualcuno? Sarebbe un disastro. Maria Stuarda è il centro del dramma. Sophie Sinclair sa sostenere il ruolo quanto Jen. Il costume le andrà bene e grazie al cielo l'abbiamo tenuto noi e non dato a Jen. Il dramma andò in scena quella sera davanti a un foltissimo pubblico. Una Sophie estasiata interpretò il ruolo di Maria Stuarda. Si era calata nei panni del personaggio come mai avrebbe saputo fare Jen Pringle. E sembrava Maria Stuarda in carne e ossa con l'abito di velluto dall'alta gorgiera e i gioielli. Gli studenti del liceo di Summerside, che avevano sempre visto Sophie con brutti abiti di saia scura, cappotti informi e cappelli consumati, restarono a bocca aperta. Si decise all'istante che diventasse socio permanente del centro di arte drammatica. Anna pagò di tasca sua la quota di iscrizione e da quel momento diventò un'allieva importante del liceo. Ma nessuno, nemmeno la stessa Sophie, poteva immaginare che quello era il primo passo sulla strada della celebrità. Di lì a 20 anni Sophie Sinclair sarebbe stata una delle più grandi attrici d'America. Ma mai nessun applauso dovette esserle tanto gradito quanto lo scrosciante battimani che seguì al calare del sipario nel municipio di Summerside. Quella sera la signora James Pringle riferì alla cara figlia Jen cose capaci di farle diventare gli occhi verdi se già non li avesse avuti. Finalmente, come asserì soddisfatta Rebecca Dew, Jen aveva trovato pane per i suoi denti. E il risultato finale era stato l'offesa nel componimento avvenimenti importanti. Anna si avviò verso il vecchio cimitero su un viottolo dai profondi solchi che correva, infiocchettato da felci gelate, lungo alti argini di pietra coperti di muschio. esili più o più appuntiti, ai quali i venti di novembre non avevano ancora strappato tutte le foglie, vi crescevano a distanza regolare, spiccando scuri contro l'ametista delle lontane colline. Il vecchio cimitero, che aveva metà delle lapidi storte come il passo di un ubriaco, era invece circondato da una solida guardia di alti e gravi abeti. Anna pensava di non trovarci nessuno e fu sorpresa quando incontrò all'ingresso la signora Valentine Cartelot, dal lungo naso fine, dalla sottile bocca fine, dalle cascanti spalle fini e dall'imbattibile aria di signorilità. Naturalmente, conosceva la signora Valentine come tutti a Summerside. Era la sarta locale e sapeva vita, morte e miracoli di tutti. Anna avrebbe voluto visitare il cimitero da sola, leggere i curiosi epitaffi antichi e scovare il nome di amanti defunti sotto la fioritura dei licheni, ma non poté evitare la signora Valentine, che la prese sotto braccio e incominciò a fare gli onori di casa, poiché oltre ai Pringle lì erano sepolti molti Curtlow. La signorina Valentine non aveva una sola goccia di sangue Pringoli in corpo e la nipote era una delle allieve preferite di Anna, perciò non le costò fatica essere cortese con lei. Bisognava solo stare molto attenti a non accennare in alcun modo al fatto che cuciva per vivere. Si diceva che la signorina Valentine fosse molto sensibile su questo punto. Che fortuna che io sia qui stasera, disse la signorina Valentine. So dirle tutto di tutti quelli che sono sepolti qui. Non mi stanco mai di dire che bisogna conoscere i particolari della vita degli ospiti per apprezzare a fondo un cimitero. Preferisco passeggiare qui che in quello nuovo. Ci sono solo le famiglie antiche sepolte qui, mentre i vari Caio, Tizio e Sempronio li seppelliscono in quello nuovo. E Curtello sono in quest'angolo. Cielo, quanti funerali abbiamo fatto in famiglia! Credo che sia così per tutte le vecchie famiglie, disse Anna, dato che la signorina Valentine sembrava in attesa di un commento. Oh, non mi dica che sono tutte come noi, disse la signorina Valentine con fierezza. Nella nostra famiglia si muore molto di tisi. Se ne sono andati quasi tutti così, con la tosse. Questa è la tomba di zia Cora, era di una bellezza straordinaria. Il pastore che c'era allora a Summerside le diceva che bastava guardarla perché la giornata si trasformasse in poesia. Belle parole, vero? Ma ho sempre pensato che erano fuori posto sulle labbra di un pastore. Zia Cora sposò uno Yankee e andò a vivere a Boston, ma quando tornò in visita all'isola e vide questo vecchio cimitero, si rivolse al marito e disse: Seppelliscimi qui, Thomas. E lui lo fece. Non subito, naturalmente, ma 3 anni dopo, quando morì. Questa è la tomba di zia Bessie, era davvero una santa. Ma non c'è dubbio che la sorella zia Cecilia fosse più interessata a parlarle. L'ultima volta che la vidi mi disse: Siediti, mia cara, siediti. Morirò stasera alle 11:10, ma non c'è motivo per cui non possiamo fare ancora 4 chiacchiere. La cosa strana, signorina Shirley, è che morì proprio quella sera alle 11:10. Come faceva a saperlo? Dica un po'. Anna tacque. E in questo punto è sepolto il bisbis nonno Curtelo. Arrivò nel 1760 e per vivere costruiva filatoi a mano. Ho sentito dire che in tutta la vita ne fece 400. Quando morì, il pastore commentò il passo, le loro opere li seguono. E Myron Pringle disse che allora la strada del paradiso alle spalle di mio bisbisnonno doveva essere ostruita dai filatoi. Lei crede che fosse un'osservazione appropriata, signorina Shirley? Se non si fosse trattato di un Pringle, Anna forse non avrebbe accentuato il suo. Certamente no. Guardando una lapide con l'incisione del teschio con le ossa incrociate, come se mettesse in discussione il buon gusto anche di quella. Ecco la tomba dello zio Jack. Era un po' distratto, così, e sposò la donna sbagliata, ma lei non lo fece mai capire. Era un vero gentiluomo. In questa tomba c'è il primo marito della prima moglie del fratello del primo marito della cugina Dora. Non so proprio come mai è stato sepolto con i nostri. La signorina Valentine si chinò a togliere delle erbacce dalla tomba dello zio distratto e Anna approfittò del momento di pausa per riprendersi dalla confusione di un albero genealogico tanto complicato. Oh, qui è sepolta mia cugina Dora. Ebbe 3 mariti, ma morirono tutti molto rapidamente. A quanto pare la povera Dora non aveva mai la fortuna di trovare un uomo sano. E l'ultimo fu Benjamin Banning, non è sepolto qui, è a Lowvale, vicino alla prima moglie, e non era rassegnato a morire. Dora gli disse allora che stava per andare in un mondo migliore. Chissà, chissà, rispose il povero Ben. Ma io ormai sono abituato alle imperfezioni di questo. Prendeva 61 medicine diverse, ciò nonostante durò per un bel po'. Qui c'è tutta la famiglia dello zio David Curtelow. C'è una rosa centofoglie piantata ai piedi di ogni tomba e come fiorisce! Vengo qui ogni estate e raccolgo i fiori per tenerli in casa. Sarebbe un peccato non utilizzarli, non crede? Suppongo di sì. Qui riposa la mia povera sorella Harriet, morta in giovane età, disse con un sospiro la signorina Valentin. Aveva capelli magnifici, quasi del colore che ha lei. Meno rossi, forse. Le arrivavano alle ginocchia. Era fidanzata quando morì. Ho saputo che lei è fidanzata. Io non ci ho mai tenuto a sposarmi, ma credo che mi sarebbe piaciuto essere fidanzata. Oh, ho avuto delle occasioni, naturalmente. Forse pretendevo troppo, ma una Curtelow non poteva sposare il primo venuto, non le sembra? E infatti non le sembrava. Frank Digby è laggiù in quell'angolo sotto i sommacchi. Mi avrebbe voluta. Qualche rammarico per non averlo accettato l'ho avuto, ma era solo un Digby, dopotutto. Sposò Georgina Troop. Lei arrivava sempre in chiesa in ritardo per farsi vedere i vestiti. Cielo, quanto le piacevano i vestiti. Fu sepolta con un abito azzurro che era un incanto. Glielo avevo fatto per un matrimonio, ma alla fine lo indossò al suo funerale. Aveva tre bei bambini. Erano sempre seduti davanti a me in chiesa. E io davo loro le caramelle. Lei pensa che non si debba dare ai bambini le caramelle in chiesa, signorina Shirley? Non parlo di quelle di menta sono adatte. C'è qualcosa di religioso nelle caramelle di menta, non crede? Ma a loro, poverini, non piacevano. Questa è la tomba di mio cugino Noble Curtelow. Abbiamo sempre avuto il dubbio che sia stato sepolto vivo. Non pareva proprio un morto. Ma non venne in mente a nessuno finché non fu troppo tardi. Proprio triste, commentò stupidamente Anna. Sapeva che doveva dire qualcosa quando la signorina Valentin faceva una pausa d'attesa, ma le sembrava impossibile pensare a qualcosa d'appropriato. Oh, qui c'è la cugina Ida Curtelow. Era l'essere più grazioso che abbia mai visto in vita mia, e anche il più allegro. Ma volubile come un soffio di vento, mia cara, come un soffio di vento. Qui c'è il cugino Vernon Curtelow. Lui ed Elsie Pringle, quella laggiù, erano follemente innamorati un tempo e avrebbero dovuto sposarsi. Ma per un motivo o per l'altro le cose andarono per le lunghe e alla fine né lui né lei ne vollero più sentir parlare. Una volta esaurito il capitolo dei Curtelow, i ricordi della signorina Valentin si fecero più mordaci. Dopotutto non era il caso di usare tanti riguardi per chi non era un Curtelow. Qui c'è la signora Russell Pringle. Mi chiedo spesso se è in paradiso. E perché? Chiese Anna senza fiato per la sorpresa. Beh, continuava a odiare la sorella Mary Ann, morta da qualche mese. Se Mary Ann è andata in paradiso, allora io non voglio andarci, diceva. Ed era una donna di parola, mia cara, come tutti i Pringle. Nasceva Pringle e sposò il cugino Russell. Questa è la signora Dan Pringle, nata Jeanette Bird, morta a 60 anni giusti. La gente dice che avrebbe ritenuto scorretto morire dopo quell'età, perché è il limite fissato dalla Bibbia. La gente dice cose buffe, vero? Secondo alcune voci, l'unica cosa che ha fatto senza chiedere il permesso al marito è stato morire. Sa, mia cara, cosa fece lui una volta che la moglie comprò un cappello che non gli piaceva? E non saprei proprio. Se l'è mangiato, disse solennemente la signorina Valentin. Naturalmente era un cappellino semplice, solo pino e fiori, niente piume. Però doveva essere piuttosto indigesto. Si dice che abbia avuto per molto tempo dolori lancinanti allo stomaco. Naturalmente io non gliel'ho visto mangiare, ma mi hanno assicurato che è vero. Lei che ne pensa? I Pringle sono capaci di tutto, disse Anna con amarezza. La signorina Valentin le strinse il braccio in segno di comprensione. La capisco, mi creda, la stanno trattando in modo orribile. Ma Summerside non è fatta tutta di Pringle, signorina Shirley. A volte invece penso di sì, disse Anna con un mesto sorriso. E invece no, e c'è un mucchio di gente a cui piacerebbe vedere che lei ha la meglio. Non ceda, qualunque cosa facciano. È il vecchio Satana che è in loro. Però loro sono molto uniti e la signorina Sera voleva che il nipote avesse il posto. Oh, qui è sepolto Steven Pringle. Non sono riusciti a chiudergli gli occhi, così è andato sottoterra con gli occhi spalancati. Anna rabbrividì. Ebbe la terribile visione del Pringle sepolto là sotto che la fissava con lo sguardo sinistro degli occhi ancora aperti. Rimase ucciso, sa? Disse la signorina Valentin. Cadde dalla scala, si diceva. La signorina Valentin abbassò la voce con tono di mistero mentre le ombre andavano infittendosi. Si diceva che il cugino, Black Joe Card, la madre di Steven era una Card, avesse fissato lo scalino in modo da farlo cadere. Lui e Joe facevano la corte alla stessa ragazza. Io non ci ho mai creduto. La gente dice cose tremende, vero? Ma certamente Black Joe diventò un tipo interessante. In chiesa lo guardavo e mi chiedevo se era vero. Magari era per quello che gli occhi di Steven non si erano più chiusi. Oh, qui c'è Helen Avery. È morta due volte. O meglio, pensavano che fosse morta, ma resuscitò quando la stavano seppellendo. La seconda volta che morì, 4 anni dopo, il marito era via. Ma telegrafò a casa, assicurarsi che sia morta prima di sostenere delle spese. Qui c'è Nathan Pringle con la moglie. Nathan credeva che la moglie volesse avvelenarlo, ma sembrava che non gliene importasse granché. Diceva che dava un tocco di vera emozione alla vita. Una volta gli venne un mezzo sospetto che gli avesse messo l'arsenico nel porridge della colazione. Andò fuori e lo diede da mangiare a un maiale. 3 settimane dopo il maiale morì. Ma lui disse che forse era solo una coincidenza e comunque non era nemmeno sicuro che fosse lo stesso maiale. Per farla breve, morì prima lei di lui e lui diceva sempre che era stata una buona moglie, tranne che in quello. Per me sarebbe un atto di carità pensare che si fosse sbagliato. A perenne ricordo della signorina Kinsey, lesse Anna stupita, che strana lapide. Non aveva altro nome? Se ce l'aveva non lo sapeva nessuno, disse la signorina Valentin. Era originaria della Nuova Scozia e rimase a servizio della famiglia di George Pringle per 40 anni. Si presentò come signorina Kinsey e tutti la chiamavano così. Morì all'improvviso e allora si scoprì che nessuno sapeva il suo nome di battesimo e non si trovò nessun parente. Così sulla lapide c'è solo il cognome. La famiglia di George Pringle le fece un bel funerale e pagò tutte le spese. Era fedele, grande lavoratrice, ma vederla e pensare che fosse già nata signorina e basta era tutt'uno. Qui c'è James Morley con la consorte. Sono stata alle loro nozze d'oro. Che gran confusione! Regali, discorsi e fiori. I figli tutti a casa e loro che sorridevano e ringraziavano e continuavano a odiarsi con tutta l'anima. A odiarsi? Ferocemente, mia cara, lo sapevano tutti. Si odiavano da un mucchio di anni. Praticamente da quando si erano sposati. Incominciarono a litigare fuori della chiesa subito dopo il matrimonio. Mi chiedo spesso come fanno a starsene qui tranquilli uno accanto all'altra. Anna rabbrividì di nuovo. Era terribile stare seduti uno di fronte all'altra a tavola, coricarsi uno accanto all'altro la sera, andare insieme in chiesa a far battezzare i figli e continuare a odiarsi. Ma dovevano pure essersi amati all'inizio. Possibile che lei e Gilbert. Che assurdità! Aveva i nervi scossi per via dei Pringle. Qui è sepolto il Ben John McTabb. Si è sempre sospettato che Annetta Kennedy si sia affogata per lui. I McTabb erano tutti belli, ma non si poteva credere a una sola parola di quello che dicevano. Una volta qui c'era una lapide a ricordo dello zio Samuel, che si credeva affogato in mare 50 anni fa. Quando rispuntò vivo e vegeto, la famiglia levò la lapide. Chi gliel'aveva fatta non volle riprendersela, così la moglie di Samuel la usava come asse per impastare. Pensi un po', tirare la sfoglia su una lastra di marmo. Lei diceva sempre che quella vecchia lapide funzionava benissimo. I bambini McTabb portavano a scuola biscotti con lettere e figure in rilievo che altro non erano se non pezzi dell'epitaffio. Li offrivano con molta generosità, ma non sono mai riuscita a mangiarne uno. Ho le mie idee per certe cose. Ah, qui c'è il signor Harley Pringle. Una volta dovette spingere Peter McTab in carriola sulla strada principale con una cuffia da donna in testa perché aveva perso una scommessa sulle elezioni. Tutta Summerside andò a vederlo, tranne i Pringle, naturalmente. Erano quasi morti di vergogna. Qui c'è Millie Pringle. Volevo bene a Millie, anche se era una Pringle. Era molto carina. E aggraziata, come una fata. A volte, mia cara, penso che in serate come queste esca dalla tomba e balli, come faceva un tempo. Ma forse i buoni cristiani non dovrebbero nutrire certi pensieri. Questa è la tomba di Herb Pringle. Era uno dei Pringle simpatici, faceva sempre ridere. E lui rise, bello e forte, in chiesa, quella volta che un topo saltò giù dal cappello infiorato di Meta Pringle, assorta in preghiera. Io non avevo molta voglia di ridere, non sapevo dove fosse andato il topo. Raccolsi le sottane attorno alle caviglie e le tenni ben strette fino alla fine della funzione. Ma ormai la predica era rovinata. Herb era proprio dietro di me e che urlo lanciò! Chi non aveva visto il topo credeva che fosse impazzito. Sembrava proprio che quella risata non potesse morire. Se fosse vivo starebbe dalla sua parte, signorina, a costo di contraddire Sera. E questo è naturalmente il monumento del capitano Abraham Pringle. Dominava tutto il cimitero. Quattro piattaforme di pietra rientranti formavano un piedestallo quadrato su cui svettava un'enorme colonna di marmo, sormontata da una ridicola urna funeraria avvolta in drappeggi, a cui piedi un paffuto cherubino suonava la tromba. Che orrore! Commentò spontaneamente Anna. Lei crede? La signorina Valentina era stupita. Ne dicevano un gran bene quando lo eressero. Quello rappresenta l'arcangelo Gabriele che suona la tromba del giudizio. A mio vedere dà un certo tono di eleganza al cimitero. È costato $900 ai suoi tempi, sa? Il capitano Abraham era un galantuomo. È proprio un peccato che sia morto. Se fosse vivo lui, lei non sarebbe perseguitata come ora. Non mi stupisce che Sarah ed Ellen siano fiere di lui, anche se forse esagerano un po'. Quando fu al cancello del cimitero, Anna si voltò. Uno strano e tranquillo silenzio gravava sul paesaggio senza vento. Raggi di luna simili a lunghe dita incominciavano a filtrare tra gli oscuri abeti, sfiorando ora una tomba, ora l'altra e formando ombre bizzarre. Ma il cimitero non era poi tanto triste. I suoi ospiti sembravano vivere ancora dopo i racconti della signorina Valentin. Ho saputo che lei scrive, disse la signorina Valentin con tono preoccupato mentre si avviavano sul sentiero. Non metterà nelle sue storie quello che le ho detto, vero? Può stare certa di no, promise Anna. Lei crede che sia sbagliato o pericoloso parlare male dei morti? Sussurrò con una certa preoccupazione la signorina Valentin. Credo che non sia né l'una né l'altra cosa, disse Anna. Semmai è scorretto come colpire chi non si può difendere, ma lei non ha detto niente di davvero grave su nessuno, signorina Curtlow. Le ho detto che Nathan Pringle sospettava che la moglie volesse avvelenarlo, ma le ha concesso il beneficio del dubbio, rispose Anna. E così rassicurata, la signorina Valentin si congedò.